Don Chicho. ¿Qué pasa, padrino? Le llevaste el regalito al doctor Zapatote. Sí, padrino. Bueno, acordate, Chicho, que parezca un accidente, ¿eh? Y bueno, Chicho, son la cosa del negocio. Así es el oficio. ¡Vieja! ¡Oye, 29! ¡Prepara la ñoqui con salsa de ojo y vino tinto! ¡Que canten los timbales! ¡Que cante el violín! ¡Que aquí en la vida todos juntos a reír! ¡A ver que cante el Tano! ¡Reque così sei più vicina! A illuminare la vita mia, ma che mistero è la vita mia, ma che mistero, somma tutti un peccatore. Io vorrei liberarti il cuore, io vorrei restare indietro, la la la la. La la la la la la li li li li li li li li li li canta canten canten al mundo che lo rabbiole e stan tutti e Madonna canta la la li li li li li li li li la la la la li li li li li. Io vorrei liberarti il cuore, io vorrei restare indietro e fare finta di cadere, perché così, perché si avvicina a illuminare la vita mia, miserere. Miserere, misericordia alla umanità. Mi amor! Che passa, bambini? Grazie per il regalito che mi hiciste con ese anillito di oro. Però ti faltò un dettaglio, mi vida. Ma che dettaglio, bambini? Ti olvidaste sacarmi il velo. E bueno, sono le cose dell'ufficio. La la la. Prepara lo raviole, prepara il gnocchi con tucco e vino tinto e beva la Madonna. E forza Italia, forza Italia, forza Italia! Madonna Santa dei bambini! Viva Miguel Ángel, Leonardo da Vinci, forza Italia, forza, forza.